Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Buongiorno a tutti per questo mercoledì 23 ottobre, una pagina italiana che è sempre rotolata su se stessa, una pagina internazionale che è sempre più drammatica, ma noi cominciamo come sempre con Radio Bullet, buon ascolto. Buongiorno e benvenuti nel web notiziario che ci racconta il mondo che ci circonda, sono Barbara Schiavulli e questi i titoli di oggi. Yemen, milioni di persone senza acqua. Iran, bandito dalle competizioni internazionali di judo perché si rifiuta di confrontarsi con gli atleti israeliani. Turchia, accordo con la Russia per pattuglie congiunte nel nord-est della Siria. Libano, bambino in mezzo alle proteste e la gente gli canta per calmarlo, Baby Shark. Regina di bellezza iraniana chiede asilo nelle Filippine. Se torno mi uccideranno. E ancora Afghanistan, nuovi colloqui con i talebani, questa volta in Cina. Cile, presidente chiede perdono. E infine, condannato a 15 anni, giornalista dai separatisti ucraini. Questo e molto altro nel web notiziario di Radio Bullets. Oltre 15 milioni di persone in Yemen sono senza acqua per bere, cucinare, lavarsi a causa della gravissima carenza di carburante che colpisce il paese, già messo in ginocchio da oltre 4 anni e mezzo di conflitto. E l'allarme lanciato da Oxfam, che rivela che nelle ultime settimane 11 milioni di persone che sino ad oggi sopravvivevano grazie all'acqua erogata dalle poche reti idriche ancora in funzione e altri 4 milioni già costretti a rifornirsi da autocisterne private hanno dovuto ridurre al minimo il consumo di acqua, mentre in tre grandi città come Ibn Damar e Al-Mawit, che contano oltre 400.000 abitanti, non funzionano più le principali infrastrutture idriche. A scatenare questa emergenza, spiega l'organizzazione no profit, c'è l'aumento esponenziale del prezzo del carburante provocato dalle recenti restrizioni alle importazioni imposte sia dal governo riconosciuto dalla comunità internazionale yemenita che dalle autorità Houthi. L'Iran è stato bandito dalle competizioni internazionali di judo a tempo indeterminato per essersi rifiutato di confrontarsi con gli atleti iraniani. L'International Judo Federation aveva emesso un divieto temporaneo il mese scorso mentre indagava su una denuncia secondo cui l'Iran aveva ordinato a un judoka di deliberatamente rinunciare a una gara dei campionati del mondo per evitare di affrontare un concorrente israeliano nel turno successivo. La sospensione arriva dopo che il campione del mondo Saeed Mollahi ha lasciato la squadra iraniana a Tokyo in agosto per protestare dicendo che gli era stato ordinato di rinunciare alla semifinale piuttosto che rischiare di affrontare un avversario israeliano nella finale della classe 81 kg. Mollahi, 27 anni, ha perso la semifinale e poi il terzo posto. Mollahi ha dichiarato che gli è stato ordinato di ritirarsi dalla competizione dai presidenti della Federazione di Judo iraniani e dal Comitato Olimpico. La Federazione iraniana ha negato che fossero state esercitate pressioni per costringerlo a ritirarsi dai campionati. Iraq, la commissione d'inchiesta governativa incaricata di far luce sulle uccisioni di manifestanti a Baghdad e in altre città del paese dopo l'ondata di protesta tra il 1 e il 6 ottobre contro la corruzione confluita in scontri con le forze dell'ordine e di 157 persone uccise, 149 civili e 6 poliziotti. Secondo il rapporto, le forze di sicurezza hanno fatto uso eccessivo della forza in diverse occasioni. Il 70% delle vittime è stata colpita da proiettili alla testa e al torace, annunciato il licenziamento dei comandanti delle forze di sicurezza irachene. Libano, sesto giorno di proteste contro il carovita e la corruzione. Le riforme economiche annunciate dal premier non convincono e la gente torna in piazza. Intanto la popolare canzone Baby Shark, usata per cullare i bambini diventa un grido di battaglia per i manifestanti, cantata spontaneamente per calmare un bambino con tanto di balletto che si è ritrovato nel pieno di una rumorosa manifestazione. Il bambino era in macchina, circondato dai manifestanti. Il padre ha chiesto alla gente se potevano smettere di urlare, che lui si sarebbe spaventato. La gente si è fatta intorno e si è messa a cantare con le mani che raffiguravano il morso dello squalo e grandi sorrisi. Il video girato da papà Elien Jabbour è diventato virale. Siria conclusa, sì, la tregua strappata alla Turchia dagli americani. Le forze curdo-siriane hanno confermato di essersi ritirati dal nord-est e scatta un altro accordo dopo la visita del presidente russo Putin. Turkish President Tayyip Erdogan and Russian President Vladimir Putin met in Sochi and drew up a plan to jointly control and patrol a broad swath of the Syrian border. Russia e Turchia hanno quindi annunciato pattuglie congiunte nella zona di sicurezza al confine siriano per 10 chilometri. Inoltre il protocollo d'intesa, di cui troverete il link della versione integrale sul nostro sito, è stato annunciato dai ministri degli esteri Cavusoglu e Lavrov. Le forze turche e russe condurranno pattuglie nella zona cuscinetto per garantire che lo YPG si sia ritirato a 32 chilometri dal confine turco, ha detto Erdogan dopo 6 ore di incontri con il presidente russo a Sochi. I would like to express hope that the level of Russian-Turkish relations. La Turchia ha lanciato l'operazione Peace Shield nel nord-est della Siria il 9 ottobre con l'obiettivo di espellere le forze democratiche siriane da un'area di 30 chilometri lungo il confine. Parliamo di circa 800 combattenti curdi che si sono spostati. Il ministro della difesa russo ha anche detto che almeno 500 persone sono evase, tra cui militanti dell'ISIS nel nord della Siria, dopo che la guardia hanno abbandonato le prigioni. Erdogan vuole reinsediare 2 milioni di rifugiati siriani attualmente in Turchia, in quella zona, e impedire ai curdi siriani di unirsi al territorio attorno al confine meridionale della Turchia. Intanto il presidente siriano Assad ha raggiunto le truppe al fronte nella città di Hubeit, nella regione di Idlib, ancora in mano ai ribelli e jihadisti. Erdogan è un ladro, ha rubato fabbriche, grano e petrolio e ora ruba la terra, ha detto Assad, che continuerà a combattere contro il terrorismo. Secondo le Nazioni Unite sono più di 176.000 le persone sfollate nel nord-est. Gli americani durante un incontro hanno avvisato i curdi di non parlare né con la Russia né con Assad. Intanto un drone non identificato ha colpito militari iracheni sul confine e l'esercito iracheno ha specificato ai militari americani che si sono ritirati dalla Siria entrando in territorio iracheno che possono passare ma non restare. Spostiamoci in Turchia, dove altri 4 sindaci del Partito Democratico Popolare Curdo HDP sono stati rimpiazzati da funzionari statali. Ankara accusa l'HDP di legami con i militanti del fuorilegge Kurdistan Workers Party. Il PKK ha sostituito finora un totale di 12 sindaci per presunti legami con il terrorismo dalle elezioni comunali di marzo, sospesi e sostituiti da amministratori locali. Le autorità hanno successivamente arrestato formalmente i sindaci di Kayapinar, Kokakoy e Erçis, hanno riferito fonti di sicurezza e giudiziarie. L'ex sindaco di Bismil è stato rilasciato sotto controllo giudiziario, ha detto poi la procura di Diyarbakir. Palestina, l'autorità palestinese ha bloccato 59 siti web palestinesi, canali social critici del presidente Mahmoud Abbas. Alcuni siti bloccati sono molto popolari tra i palestinesi e nel resto del mondo arabo. Alcuni parlano in modo critico di quello che sta succedendo in Cisgiordania e a Gaza, mentre altri sono identificati con Hamas, la Jihad Islamica o Mohammed Dahlan, uno dei principali oppositori di Abbas. L'elenco include il sito web Arab 48, che ha sede ad Haifa ed è identificato col partito Balad. La Palestinian Press Association ha descritto la decisione come un giorno nero per il giornalismo palestinese, un duro colpo alla libertà di stampa. Egitto, riparte il dialogo tra le procure, quella italiana e quella egiziana, sul caso Regeni. Il procuratore del Cairo ha chiesto un incontro sulle indagini. Solo poche ore dopo che Amnesty International ha accusato "Siamo in Libia, le due parti del conflitto" di totale disprezzo per le leggi, un attacco aereo ha ucciso due bambini a Tripoli quando un razzo ha colpito la loro casa nella capitale. Il governo d'accordo nazionale, riconosciuto dalle Nazioni Unite, ha accusato del bombardamento le forze del leader della Libia orientale, Khalifa Haftar. Haftar ha lanciato un'offensiva per conquistare la capitale ad aprile, ma ha incontrato una forte resistenza da parte delle forze fedeli al governo di accordo nazionale con base a Tripoli. Stai ascoltando Radio Bullets. Malta, un centinaio di migranti è stato arrestato per aver partecipato alla rivolta che tra domenica e due giorni fa ha devastato il centro di accoglienza di Al-Far. Il governo inglese ha cancellato oggi il divieto imposto nel 2015 per motivi di sicurezza sui voli fra il Regno Unito e l'aeroporto di Sharm el-Sheikh. In Egitto il Ministero dei Trasporti ha ridimensionato l'advice sulla pericolosità dello scalo e verificato il miglioramento delle condizioni di sicurezza antiterrorismo. Svezia, ambulanza rubata si getta sulla folla a Oslo, travolta una coppia e una donna con due gemelli in passeggino, tre i feriti, arrestata una donna sospettata di essere coinvolta nell'attacco, accusata di possesso di arma, nel mezzo trovati un fucile, una mitragliatrice, arrestato anche l'uomo alla guida di 32 anni, un ex poliziotto, mentre lei ne ha 25, hanno legami con ambienti di estrema destra. Stati Uniti, una persona è rimasta ferita in una sparatoria fuori dalla scuola superiore in California. La polizia di Santa Rosa ha dichiarato che gli agenti hanno risposto a una sparatoria isolata fuori dalla Ridgeway High School. Un sospetto è stato arrestato e stanno cercando l'arma. Bolivia, niente ballottaggio, vince le elezioni, confermando il suo quarto mandato il presidente Morales. Gente scende in piazza, incendia gli uffici elettorali a Sucre. Cile, il presidente Piñera chiede perdono, dice di non aver compreso la drammaticità della situazione e presenta una nuova agenda sociale. Intanto un altro manifestante è stato ucciso durante le proteste a Curicó, arrestato il soldato che gli ha sparato. Sale a 15 il bilancio delle vittime, 2.643 le persone arrestate. L'opposizione di sinistra si è rifiutata di incontrare il presidente, citando preoccupazione per gli abusi da parte delle forze di sicurezza. 10 città sono in stato di emergenza e sotto il coprifuoco notturno, sorvegliato dai militari dopo che sono scoppiati disordini venerdì, i peggiori degli ultimi 10 anni in uno dei paesi più stabili dell'America Latina. La frustrazione per l'alto costo della vita e gli aumenti delle tariffe dei trasporti a Santiago sono diventati un punto critico contro il governo di centrodestra di Piñera, spingendo a chiedere riforme su questioni che vanno dal codice fiscale al lavoro e al suo sistema pensionistico. I separatisti filorussi nell'Ucraina orientale hanno dichiarato di aver condannato un giornalista a 15 anni di carcere dopo che un tribunale lo ha giudicato colpevole di spionaggio per conto del servizio di intelligence SBU dell'Ucraina. Stanislav Aseyev, 30 anni, era scomparso nella regione del Donetsk nel giugno 2017, dove stava lavorando con uno pseudonimo per il servizio ucraino di Radio Free Europe, finanziata dal governo degli Stati Uniti. Una dichiarazione rilasciata dall'ufficio del procuratore generale nella autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk sostiene che Aseyev aveva raccolto informazioni militari sui separatisti e prodotto materiale che li mostrava in luce negativa. Lo ha anche accusato di aver reclutato altri per raccogliere informazioni per conto dell'Ucraina. Afghanistan. La prossima settimana si terrà in Cina un nuovo ciclo di colloqui di pace tra afghani, lo ha rivelato il portavoce dei talebani Suhail Shaheen. I colloqui previsti per il 28 e il 29 ottobre saranno il primo incontro tra talebani e importanti dirigenti afghani da quando sono saltati i negoziati con gli americani che si sono tenuti a Doha. Lunedì il Dipartimento di Stato americano ha dichiarato che il suo inviato di pace, Zalmay Khalilzad, ha iniziato un nuovo round di colloqui con europei, NATO e alleati delle Nazioni Unite sulla fine di questa guerra. Khalilzad incontrerà poi rappresentanti russi e cinesi per discutere di interessi condivisi divisi nel vedere la fine della guerra in Afghanistan, ha scritto il Dipartimento di Stato. Intanto 16 poliziotti sono stati uccisi nel distretto di Ali Abad e 2 feriti durante scontri con i talebani nel nord dell'Afghanistan, dopo che i talebani hanno attaccato alcuni posti di blocco. Una regina di bellezza iraniana ha chiesto asilo nelle Filippine mentre lotta contro l'estradizione richiesta dal suo paese, temendo che verrà giustiziata se verrà rimandata indietro. Barenzare Bahri, che ha partecipato al concorso Miss Intercontinental 2018 a Manila, è rimasta intrappolata all'aeroporto di Ninoy Aquino nelle Filippine dal 18 ottobre, quando l'Iran ha emesso un allarme rosso dell'Interpol accusandola di aggressione e lesioni personali. La Bahri, 31 anni, ha detto che le accuse sono una grande menzogna, che è stata presa di mira per il suo attivismo politico e per il sostegno ai diritti delle donne. Se vengo deportata in Iran, mi uccideranno, ha detto. The Financial Times is reporting that China... La Cina starebbe elaborando un piano per sostituire la leader di Hong Kong, Carrie Lam, con un amministratore delegato ad interim, riferisce il Financial Times, citando persone informate che porterebbero alla fine del governo Lam dopo mesi di proteste democratiche. La Lam è diventata un parafulmine delle proteste contro i timori che Pechino stia rafforzando la sua presa, limitando le libertà di cui gode in principio un paese, due sistemi. Sancito quando il sovrano coloniale inglese restituì Hong Kong alla Cina nel 1997. E concludiamo con il Giappone. L'imperatore Naruhito è stato proclamato nuovo sovrano in una cerimonia solenne al Palazzo Imperiale di Tokyo, alla presenza di circa 2000 ospiti, tra cui capi di Stato e dignitari di 190 nazioni. Nel suo discorso inaugurale, Naruhito ha detto che si impegnerà a rispettare la Costituzione e adempiere le proprie responsabilità come simbolo dello Stato e dell'unità del popolo giapponese. Era sceso al trono il 1 maggio, il giorno dopo l'abdicazione del padre 85enne Akihito, la prima in oltre 200 anni della casa imperiale. E da parte nostra anche oggi è tutto, grazie di essere stati con noi, appuntamento domani con Paola Mirenda e le notizie da Africa ed Europa. One eye for the people east, sweet fire calling, you can't deny me. Now you know what you need. Underneath the jungle gym, hollow gray fire escape through, looking for sweet fire, shadow of lady. Lander. Do you wanna contact somebody first? Leave someone a letter. You can come now, you can come later. Just watch a ring the downstairs screamer, edgy black cracks of the sky. Pincushion crisscrossed and padlocked corridors, spit on pears and please hot fire from the sweet fire, black suit of lace. Oh.

pensa, a voi non va. Cercate solo di capire che non facciamo male mai. Come potete giudicare? Come potete condannare? Credete che noi siamo per i capelli che portiamo. Facciamo così perché crediamo che nessun male si possa fare. E se vi fermaste un po' a guardare, che non abbiamo fatto male mai, oh mai, no, non mai, mai, no, no, non mai. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Elzeviri e zirconi estratti dai giacimenti culturali. Nove e 33 minuti di questo 23 ottobre, mercoledì, dunque la manovra sembrerebbe a questo punto definita, almeno fino al prossimo colpo di scena all'interno della maggioranza. Così riassunto dal Sole 24 Ore nel suo primo capitolo forse più rilevante: manette agli evasori, stretta sulle sanzioni e confisca più facile. Per la prima volta imprese responsabili dei reati, al via con le dichiarazioni del 2020. Plastic tax invariata, spazio a modifiche per la sugar tax, meno vincoli ai subappalti, magari chiamassero in italiano le tasse sarebbe meglio. Resta il forfettario del 15% fino a 65.000 euro, tetto ai dipendenti e collaboratori. E naturalmente questo si lega anche alla vicenda del contante, del cash, la tracciabilità dei soldi per evitare il nero. E allora il rapporto Censis AIPB, sempre raccontato dal Sole 24 Ore, giornale di Confindustria: contante, italiani prima in Europa, ma cresce il pagamento con le carte. Mattarella sull'uso del POS, arginare il nero con il digitale. Poi vedremo che anche su questo c'è articoli, esempio dalla Stampa: procedura automatica per premiare i bancomat, non sarà necessario conservare gli scontrini, la guerra al contante rinviata al 1° di luglio, affidate ai gestori dei pagamenti elettronici date del cashback che sarà versato il 6 gennaio 2021. E Mattarella, Presidente della Repubblica, dice, leggiamo sempre dalla Stampa, usare l'innovazione per contrastare economia parallele, ma c'è il problema delle commissioni che colpiscono naturalmente i commercianti che accettano pagamenti elettronici. E allora il reportage arriva con ristoratori torinesi o commercianti di abbigliamento e scarpe milanesi, Fabrizio Alessandri, Claudio Luise dalla Stampa: il POS mi costa 2000 euro l'anno, con la stretta temo una mazzata. Ristoratori e negozianti di Torino, le commissioni vanno cancellate. Finalmente questa cosa dovrebbe essere fatta con un colpo di penna nella finanziaria, semplicemente perché non c'è nulla che ostiche questa roba se non la lobby delle banche, sono contrarissime, anzi che vedono nel pagamento elettronico diffuso un aumento dei loro introiti. La Corriere della Sera: così colpiremo gli evasori. È Bonafede che spiega la riforma, è una svolta culturale, non temo le trappole. L'Unione Europea richiama l'Italia sul debito, ma Moscovici apre. Conte dice il testo non si stravolge, non sappiamo se è un dato di fatto o una desiderata di Conte. Comunque, attacchi dal fronte di Di Maio, ma il Premier non cede terreno, bisogna cambiare il paese. Il PD gli fa scudo, si alzano i toni sull'avversario, non sugli alleati. Si parla poi anche non a Conte ma a Renzi e Italia Viva. Ma della serie Fatti i fagioli tuoi parliamo del CEPS, ovvero sia Center for European Policy Studies, Mr. Daniel Gross, che dice: manovra poco coraggiosa, il deficit non viene ridotto. Insomma, per essere coraggiosi, secondo Daniel Gross, che avrà chiaramente la sede fiscale in Lussemburgo o da qualche altra parte, così bisogna tagliare la sanità a chi è malato. Questo è il coraggio dell'economista, un falco. L'Unione Europea non può far finta di non vedere. E allora dice: sarebbe un errore concedere flessibilità ad un paese con un debito così elevato. Questo è Daniel Gross, che non si fa i suoi fagioli. E allora, mentre il Carlino nel suo titolo di apertura ci conferma appunto la blindatura della manovra da parte di Conte, che teme delle imboscate, forse non ha tutti i torti, nel frattempo c'è il giudizio di commercianti e costruttori, è una stangata, autotrasportatori sulle barricate, critici anche gli industriali, insomma tutti insieme appassionatamente. Il Giornale in particolare evidenzia l'allarme di Confesercenti nel suo titolo di apertura: senza banconote, batosta sulle famiglie, commissioni sul bancomat, le banche fanno muro. È appunto già il tema del POS di cui accennava Alfredo. Il governo fa i conti senza l'oste, sulle carte il muro delle banche che studiano come scaricare sui clienti i tagli delle commissioni. Quindi il Giornale per l'occasione travestito da Robin Hood, anche se magari non risulta troppo credibile, ma in questo appunto fronte contro le banche. Mentre Conte lancia la detassazione degli aumenti. Anche il Manifesto, nelle pagine di apertura, usa un titolo alla Battisti e Mogol: innocenti evasioni, l'Unione Europea conciliante, anche se teme la rissa. E Conte però cerca di rassicurare: non ci sarà. Nella lettera sulla manovra Bruxelles non chiede modifiche, e appunto Conte dice la legge di bilancio non sarà stravolta, e lo dice, questo appunto la conferma arriva anche dalle pagine della Repubblica, dove peraltro questa rassicurazione appunto di Conte sembra funzionare, perché per Moscovici, che è ancora a cavallo della commissione per quanto riguarda la poltrona economica, il confronto con l'Italia è sereno, però naturalmente c'è Renzi dietro la finestra che promette battaglia in Parlamento, secondo quanto ci dice Repubblica, che poi fa anche un po' di conti. Ecco il costo della pace nel governo. Vediamo quanto è costato appunto per tenere al momento tutto un po' in questo clima di tregua armata. In manovra mancano fino a 400 milioni. La mini flat tax esce dal decreto fiscale e va in legge di bilancio perché non c'è ancora l'accordo politico, mentre è stato rifinanziato il bonus giovani di Renzi. Questi sono alcuni degli aspetti che emergono. Si può dire che molto della manovra arriverà a metà anno. Il taglio del cuneo fiscale sulle buste paga è previsto per luglio, l'abolizione del super ticket da 10 euro a settembre, le multe per i POS e la riduzione del contante a luglio. Luglio sarà un mese impegnativo, la tassa sulla plastica ad aprile, e questo insomma sono l'effetto dilatorio, mentre appunto anche Repubblica ci ricorda che sui piccoli acquisti il POS costa l'1% e quindi si studia, questo è il tono qui è più conciliante, si studia una soluzione insieme alle banche. Naturalmente il libro con la finesse che contristingue il suo direttore Feltri apre: dalle tame nascono le tasse, più che un governo pare una latrina. Il libro sembra dar torto ad Andrei, che cerca: dalle tame nascono i fiori, il libro non ho mai visti. Comunque la pagina è sempre in qualche modo arzigogolata, a dir poco. Quanto sia poi che ci mettono i giornali, quanto sia lì qualche personaggio che fa la sua uscita su un Facebook, su una telefonata, velino o quant'altro, quello ai posteri la tua sentenza, e quanto ci sia di realtà. Sta di fatto che il caso evocato da Ilario Lombardo dalla pagina della Stampa di Torino è questo: deputati 5 Stelle senza capo, le fronde si coalizzano ma l'anti Di Maio non c'è, anche perché sono fronde molto diverse un dall'altra, quanto sembra. Il gruppo dei cosiddetti competenti di Trissino, famoso i competenti di Trissino, una pagina storica che c'è anche sull'antologia della letteratura italiana, i competenti di Trissino chiede il cambio di leadership, piace Ricciardi, il ministro D'Incà della serie ma chi siete, un problema lavorare sulla manovra. questo è La Stampa. Mentre abbiamo il Corriere, e sui partiti i leader a caccia di rivincite nel Parlamento degli sconfitti. Perché gli sconfitti sono il Partito Democratico delle ultime elezioni, sicuramente i 5 Stelle che hanno vinto ma poi hanno avuto una debacle, e c'è chi ha perso l'urna e chi dopo aver vinto, qui c'è Salvini che ha fatto harakiri in questo agosto, impiegheremo il tempo per studiare il desiderio di rivalsa, questo è l'aspetto psicologista evocato da Francesco Verderami, retroscenista del Corriere. Il desiderio di rivalsa emerge dalle parole che finiscono per contraddire le strategie. Ancora abbiamo le mosse di Zingaretti, quindi andiamo al PD. Il governo può esistere solo se c'è di svolta. E qui naturalmente vedremo che oggi è la giornata delle etichette. E Franceschini, se si cade si va alle elezioni, anche perché non so dove potremmo andare altrimenti. Dietro fronte, no, in realtà si evoca, si risponde a Renzi che pensa, senza niente, che tanto nascondono un governo di unità nazionale tipo Monti, dove lui diventerebbe l'ago della bilancia, sempre nelle speranze di Renzi. La lite sul nome, e qui entriamo in area leghista centrodestra, dietro fronte a Bolzano, torna Alto Adige. Un dietro fronte su tutta la linea, la giunta provinciale altoatesina ha approvato ieri disegno di legge che reintroduce il termine Alto Adige nella legge europea. Il nuovo testo approderà in consiglio a fine novembre, non è scontato che la giunta SVP Lega trovi voti per ripristinare la dicitura Alto Adige. Il dietro fronte potrebbe non bastare ad evitare un contenzioso costituzionale. E allora dal Bolzano scendiamo un po' più a sud, andiamo in Veneto col Gazzettino del Nord-Est. Autonomia, la via veneta di Zaia. Il governatore, o il governo decide o porto le materie in consiglio e noi facciamo noi le leggi. E intanto ha ripreso il confronto tecnico a Roma con Boccia. Io lavoro, non faccio polemiche sterili. Boccia è il ministro per le autonomie che sta studiando una legge che, dice Boccia, dovrebbe in qualche modo favorire le regioni del sud, e questa cosa fa venire sangue agli occhi alle regioni secessioniste del nord. Anche perché c'è un tallonamento di Zaia che viene raccontato da Giuseppe Petrobelli, anzi. Veneto, la fronda antileghista. Zaia ha tradito il referendum. 2 anni senza autonomia. Quindi chi vive sperando muore, eccetera, eccetera, eccetera. Nuovo movimento. Nuovo, insomma. A Padova diversi esuli del Carroccio lanciano una lista basta patti con i partiti romani. Siamo ancora a un topolino che minaccia l'elefante, ma la secessione nella secessione potrebbe essere un cancro che a lunga potrebbe rodere la Lega con i suoi nazionalismi ad oltranza. Salvini sta con gente con noi che con noi non c'entra nulla, è uguale a quelli che abbiamo sempre contestato, anche perché se pensiamo per esempio all'Alto Adige che sopra citato, la signora Meloni è erede di quel movimento fascista che obbligò all'italianizzazione i tedeschi dell'Alto Adige, quindi qualche frizione ancora esiste. Sì, a proposito di referendum, segnalo dal Manifesto che nel referendum sulla legge elettorale la Lega ha sbagliato quesito. La Cassazione frena sul referendum abrogativo pro-maggioritario ideato dalla Lega, quello che vuole cancellare dalla legge elettorale la quota di seggi assegnati con il proporzionale. Dall'ufficio centrale è arrivata una richiesta di correzioni alle 8 regioni a maggioranza di centrodestra che avevano presentato la proposta di referendum abrogativo, consigli regionali riassunti e rappresentati da Calderoli, autore dell'escamotage con il quale si vorrebbe bloccare la trasformazione del Rosatellum in un sistema solo proporzionale, e quindi è arrivata insomma questa bacchettata della Cassazione, e vedremo adesso, ci sarà tempo fino all'8 novembre per modificare appunto il quesito. Parlavi, evocavi Zingaretti, oggi Zingaretti concede un'intervista alla Repubblica che apre proprio su questo, è uno Zingaretti insomma che cerca di alzare la voce, pretendo un governo più leale, non voglio andare a votare ma non si può pensare solo alle poltrone, e a Renzi ricordo che il nemico è la destra. Questa è la sintesi della pagina appunto di intervista a Zingaretti, che non ha preso bene nemmeno l'uscita della Boschi, dice infelice la sua uscita contro di noi, e anche la Boschi effettivamente ha la memoria cortissima. E allora dalla Boschi alla Bellanova, il ministra Teresa Bellanova, che mostra i muscoli per conto di Renzi nei vertici di maggioranza, dice la Bellanova, nei Dem eravamo bersagli e quindi per questo ce ne siamo andati. Ma dalle pagine invece del del manifesto, si guarda anche 5 Stelle, perché c'è un'intervista a Roberta Lombardi, che è capogruppo del 5 Stelle alla Regione Lazio, che dice: la manovra è un buon inizio, Conte va davanti, nessuno lo può logorare. Il risultato umbro non cambierà l'alleanza con il PD, mentre escludo alleanze per il futuro con la Lega. La quale Lega, invece, ci dice il giornale, è impegnata tra Savoini e note spese. I Dem sposano i teoremi dell'inchiesta di Report, il PD cavalca il complotto, mentre sempre il giornale ci ragguaglia: i genitori di Renzi vanno verso il processo per bancarotta. Questo è un aggiornamento, visto che i due Mattei si sono scambiati cortesie reciproche a proposito dei loro problemi, i problemi loro, dei familiari, con la magistratura. E ancora dal manifesto segnalo, sempre a proposito della pagina, della pagina politica, questo signore. Si chiama Catello Vitiello, rima baciata. Inizia una nuova avventura questo signore, che ha annunciato la sua adesione a Italia Viva. Il manifesto lo sceglie come campione del trasformismo contemporaneo. Candidatosi con i 5 Stelle, fu espulso prima del voto perché membro in sonno, chiari lui, della loggia massonica La Sfinge. Si iscrisse al gruppo misto degli italiani all'estero. Salì alla ribalta delle cronache come firmatario di un emendamento che ammorbidiva l'abuso d'ufficio e il peculato, poi è passato con Toti, con il movimento Cambiamo, e adesso invece è arrivato da Renzi, un leader, dice, che ha le idee chiare, un po' più chiare di quelle che ha Catello Vitiello. Travaglio questa mattina parla di un po' di rivoluzione, forse esagerando i toni, comunque leggiamo: se è vero, come diceva Flaiano, che l'unica rivoluzione in Italia è la legge uguale per tutti, la riforma antievasione annunciata dal governo Conte ha un che di rivoluzionario. Non si era mai visto nulla di simile nella storia repubblicana, e infatti gli house organ di Berlusconi e Salvini, il giornale Libero, sono letteralmente impazziti. Conte e il suocero rischiano la galera, il giornale di ieri di Libero, della Verità. Il suocero di Conte è condannato per evasione. Si tratta naturalmente di fake news, come la tradizione della casa. Il padre della compagna di Conte, gestore dell'Hotel Palace Plaza di Roma, patteggiato per peculato per aver dichiarato le tasse di soggiorno incassate ma senza versare al comune. E il premier, quando era solo avvocato, ebbe un contenzioso con l'Equitalia per non aver saldato due cartelle esattoriali recapitate a casa in un indirizzo in cui non risiedeva. Nulla a che vedere con le nuove norme sui reati tributari, ma facciamo finta che eccezionalmente il giornale Libero scrivano la verità. Dovrebbero felicitarsi col premier che punisce più severamente i reati di famiglia. Invece il contagio del berlusconi-salvinismo è tale che accusano Conte di non aver farsi legge suam personam, ma contra suam personam. Nessun sdegno, anzi applausi, quando Berlusconi condonava o depenalizzava reati suoi e dei suoi compari. E silenzio assoluto su Renzi, figlio e di due arrestati e condannati in primo grado per frodi fiscali e fatture false, che contesta il carcere per frode fiscale e false fatture. Manca solo che qualcuno chieda le dimissioni di Conte perché non ha condannato né depenalizzati i suoi eventuali reati e quelli del suocero. Questo è Travaglio. Invece siamo alla frase, al momento dell'ovvio, cioè il commento di Antonio Polito, quello che uno si aspetta né più né meno che scrive. Infatti anche questa mattina, dal Corriere della Sera: politica e masochismo, spaventare i ceti medi, la sinistra ci riesce sempre. Naturalmente Polito non ci spiega che sono i ceti medi, che è un concetto talmente allargato che va dal piccolo artigiano fino al chirurgo. Qualcosa forse c'è, qualcuno si spaventa di più, qualcuno si spaventa di meno. E allora più interessante invece La Stampa, che nella pagina di me solo della letteratura, perché c'è il 900 Festa Forlì, da oggi fino a sabato, arriva Michael Walzer. E dice il personaggio, filosofo della politica, docente dell'Istituto delle Advanced Study of Princeton, scrive: l'occasione perduta della socialdemocrazia. Senza lotta di classe ci si condanna al declino. Ora, parola da lotta di classe, quindi c'è tornare di moda, da The Joker fino a Michael Walzer. Lotta di classe non lo dice solo Raggi Tafugico, qualcun altro anche. L'emergenza mentale pone problemi che solo i partiti di ispirazione socialdemocratica potrebbero affrontare se non fossero così deboli, dice Michael Walzer. Ha combattuto battaglie civili importanti, il Socialdemocrazia, ma non sa ascoltare più la sua gente. Qui dici i medi famosi che spaventati da Pulito. I liberal USA non si sono opposti al liberismo e anzi hanno governato secondo le sue regole. E i lavoratori precari sentono abbandonati dai politici che dicono di proteggerli. A questo punto è utile un po' una colonna sonora che credo non risuoni nelle stanze di Confindustria. Mio caro padrone, domani ti sparo, farò di tua pelle sapon di somaro, ti stacco la testa che è lucida e tonda, così finalmente imparo il bowling, miei cari compagni, perché quelle facce, ho detto qualcosa che un po' vi dispiace, si forzo è ceduto, non fateci caso, 20 anni di rabbia fan parlare così, pensate che bello il giorno 21, padroni son tanti e padrone nessuno, pensate che bello sarà. Ma prima ti inchiodo la lingua al palato, ti faccio ingoiare un pitone salato, e con quei tuoi occhi porcini e cretini, alla mia ragazza farò gli orecchini. Compagni, sia chiaro che il giorno 21, migliore vendetta sia proprio il perdono, e allora saremo più grandi e più forti, se tutti i rancori saranno sepolti, però... Chi mi pagherà la gioia di vederti star lì appeso, grosso grasso unto e obeso, proprio come un baccalà? Chi mi pagherà la gioia di vedere le tue mogli tutte piene di cordogli, pianger solo il venerdì? Che ti importa se ti strippo, se ti importa accendi un cero, te lo spengo tutto intero dentro il naso, tutto intero dentro il naso, tutto intero dentro il naso. E allora parliamo di lavoro, introdotti da Pietrangeli, mio caro padrone, domani ti sparo. I sindacati, ora l'Ilva in pericolo, grave cancellare lo scudo penale. Naturalmente siamo al solito discorso del ricatto delle multinazionali, o fanno quel che vogliono, oppure... cambiano tutto, cioè mandano tutti a spasso, e sembra che la cosa pubblica non possa fare nulla, sembra però. Paolo Baroni dalla pagina della Stampa: ma per il ministro Patuelli è possibile trovare un punto di equilibrio. L'emendamento voluto dai 5 Stelle elimina la garanzia chiesta da Arcelor, cioè volevano l'impunità ora e sempre per fare qualcosa sull'ambiente. Naturalmente era una richiesta assurda che ha trovato anche molti placete anche all'interno della maggioranza. Fortunatamente è arrivato questo stop ed è il tema che appunto facciano armi bagagli. Quindi ex Ilva, salto lo scudo legale, sindacati, futuro a rischio, incertezze sulle prospettive, racconta l'economia del Corriere della Sera. Andiamo invece a una pagina che la Repubblica oggi dedica, pagina 10, a Taranto, all'Ilva, l'Ilva dimezzata col nuovo piano di ArcelorMittal per far fronte alla crisi. 5.000 lavoratori in esubero, e viene intervistato un operaio, uno che ha 37 anni, Fabio Boccuni. Gli ultimi 15 li ha passati in Ilva, al treno Nastri 1, il suo reparto. La politica ci ha tolto anche la speranza. Hanno ceduto alla semplificazione, come se si potesse giocare una partita tra diritto alla salute e diritto al lavoro. Le cose sono più complesse. Anche dal Manifesto, che parla di vertenze infinite, scudo Ilva frena il ministro Patuanelli, ma Mittal è pronta a tagliare, come già diceva Repubblica. I sindacati chiedono a Patuanelli di essere convocati. Un nuovo caos politico sull'ennesimo intervento legislativo del governo sull'ex Ilva, colpa dell'ok all'emendamento che prevede la soppressione dell'articolo 14 del decreto salva imprese, su cui il governo ha posto la fiducia, che prevede le tutele legali per gli affettuari, i futuri proprietari del siderurgico di Taranto. Quindi animi sempre più esacerbati, con l'amministratore delegato Morselli che chiederà il ridimensionamento appunto dell'area a caldo che occupa ben 5.000 lavoratori. Ma devo dire che purtroppo l'Ilva è in buona compagnia, perché il Manifesto, nella stessa pagina, ci ragguaglia sul caos totale che regna in Alitalia, esuberi già a quota 3.000, lite continua Ferrovie Atlantia che vorrebbe recuperare Lufthansa, i sindacati chiedono al governo di smentire, ma insomma i numeri però, le indiscrezioni sul piano Ferrovie appunto, che è il principale protagonista del consorzio indiziato, parlavano di un ulteriore aumento degli esuberi arrivati a quota 3.000 su 10.500 dipendenti. E poco sotto invece dall'aereo alle biciclette, una soluzione a metà per i rider, divisi tra continuativi e occasionali. Potrebbe finire così, scrive il manifesto: le aziende del trasporto di cibo in bicicletta via algoritmo recepiranno la nuova legge sui ciclofattorini approvata sempre in questo emendamento al decreto salve imprese. In mancanza di un preciso riconoscimento del lavoro del rapporto di lavoro subordinato necessario per riconoscere diritti e tutele, potranno optare tra due soluzioni. La prima riconosce l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, oppure, e questa è la seconda ipotesi, le aziende potranno non riconoscere questo statuto, cioè non trattare i rider come lavoratori subordinati, ma come lavoratori occasionali a cui saranno garantite solo alcune minime tutele. In parole povere, ho mangiato la nostra minestra o saltate dalla finestra. Il tema arriva anche dalla Corriere di Bologna. Rider licenziati, gestiti, ne recupera 30, spiegava ieri Corriere, che li ha licenziati per recuperarli con dei contratti molto peggiorativi. E questo viene confermato dai vari dichiarazioni dei vari esponenti, come Palma Costi, c'è questo quello di Liver Food. Ci teniamo a precisare che siamo molto dispiaciuti per la situazione creatasi con i lavoratori e con le istituzioni. Abbiamo iniziato una fase di lancio di una soluzione di delivery basata su una tecnologia proprietaria con l'obiettivo di sostenere e sviluppare il business del ristorante e fornire più ampia scelta possibile ai clienti. Chi è che poi devono pagare Dazio? Naturalmente qui si capisce qual è l'altro ricatto, perché più avanti leggiamo: altri fattorini invece non hanno potuto ricevere una risposta positiva di riassunzione in quanto non in possesso dei permessi di soggiorno adeguati ad un lavoro autonomo in Italia. Quindi il ricatto dell'immigrazione torna a essere pesantissimo. Questo è la Just It. Invece veniamo a SGB e CUB, che porteranno in piazza lavoratrici e lavoratori il prossimo 25 ottobre per lo sciopero generale. E tra le rivendicazioni non troviamo solo questioni sindacali, ma anche la richiesta dello stop alla guerra della Turchia. Ai tempi, quando il sindacato era forte, lo sciopero politico era presente. Di questo ne abbiamo parlato con Massimo Betti di SGB, sentiamo le sue parole. Intanto questo è uno sciopero che segnala il fatto che anche a sinistra, dal punto di vista sindacale, di classe, c'è una critica a questo governo che è succeduto al governo appunto giallo-verde. Qui c'è solo un'opposizione di destra. La nostra opposizione le politiche del governo, non solo a quelle, anche a quelle dell'Unione Europea, ad esempio, sono critiche che sono antiche nel tempo, nel senso che negli ultimi decenni le politiche portate avanti nei confronti dei lavoratori sono pressoché le identiche. E le rivendicazioni sono quelle dell'aumento dei salari e delle pensioni, quelle della cancellazione del Jobs Act, quelle di un lavoro stabile per tutti, quella della riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, quella ancora della cancellazione totale, completa, vera, della legge Fornero, della garanzia di una pensione a 60 anni. Quella ancora della contrarietà assoluta al welfare integrativo che viene portato nei contratti oramai nazionali di tutte le categorie a sostituzione del welfare universale. Se andiamo avanti di questo passo, fra qualche anno avranno gioco facile a tagliare sanità, scuola e quant'altro, perché tanto si penseranno i contratti integrativi, quindi solo per una parte, diciamo, dei settori popolari. Insomma, queste sono le nostre rivendicazioni. A queste, strettamente sindacali, eccetera, si aggiunge una volontà nostra, che è sempre stata nel nostro DNA, di lottare contro ogni guerra e di chiedere quindi la fine e la riconversione delle industrie militari, come chiediamo anche la riconversione delle industrie inquinanti e la fine della vendita delle armi, in particolar modo in questo momento immediatamente la fine della vendita delle armi alla Turchia. Con queste parole d'ordine, insomma, noi scendiamo in piazza 25 e chiamiamo tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori di ogni settore a darci forza. Vengono unite questioni appunto sindacali del mondo del lavoro con questioni anche internazionali, questioni sociali. Vedo anche la questione delle grandi opere, della difesa dell'ambiente, contro il razzismo, il sessismo e l'omofobia. Quindi insomma fanno tutte parte di un'unica battaglia. Sì, fanno parte di un'unica battaglia, perché in tutte queste questioni, in tutte queste cose che tu hai citato, in queste politiche, a rimetterci chiaramente sono i settori popolari, i lavoratori, chi un lavoro lo cerca, i pensionati. Quindi da questo punto di vista noi non diciamo nulla di nuovo, abbiamo relazioni internazionali con molti altri sindacati, quali esprimiamo solidarietà, soprattutto quelli che oggi sono in lotto, che subiscono delle guerre di aggressione, e ci sembra naturale lottare ad esempio in questo paese contro i due decreti sicurezza, che ricordo che questo governo ha dichiarato di voler rivedere radicalmente, che invece non ha assolutamente cambiato. Oggi, per chi non lo sapesse, in questo paese scioperare in modo diciamo non ortodosso, magari facendo un picchetto davanti una fabbrica o davanti a un cancello di un magazzino, rischi addirittura la galera. Quindi come si fa a stare fermi in questa situazione? La stessa cosa vale per le altre questioni che tu hai citato. Insomma, questo governo ha promesso, ma ad oggi non ha mantenuto assolutamente nulla. Veniamo a qualche dettaglio tecnico, perché per dire, per la nostra città la manifestazione non si terrà nella nostra città. No, allora in questa regione noi abbiamo fatto una scelta, riunendo l'attivo dei delegati dell'Emilia Romagna, di fare due manifestazioni, due presidi, una diciamo al nord della regione, una al sud, una a Reggio Emilia sotto Palazzo Comunale, una a Ravenna anche qui sotto Palazzo Comunale, dove si intrecceranno le rivendicazioni di carattere generale, alcune questioni di carattere locale importanti. A Ravenna ad esempio c'è un'avvertenza che va avanti da anni degli operai Marcegaglia, compresi quelli in appalto, in cui noi abbiamo una grossa presenza, che è in via di ristrutturazione, un'azienda appunto che è in via di ristrutturazione. A Reggio Emilia si intreccerà con la lotta del lavoro precari degli asili, delle scuole materne che sono state licenziate, che rischiano il licenziamento e che la giunta di centro-sinistra si è rifiutata di stabilizzare, nonostante fosse stato presentato ad esempio un ordine del giorno delle opposizioni, compreso anche il Movimento 5 Stelle unitario. E per quello che riguarda le altre città invece, l'indicazione a partire da Bologna è quella di contribuire alla riuscita della manifestazione di Milano, che sarà sicuramente la manifestazione più importante della giornata. Fluiranno diversi territori, non tutti, perché praticamente in tutte le regioni sono previsti anche presidi o manifestazioni locali. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione. E veniamo al terreno del clima. Politiche verdi, perché valutare i costi e benefici? Articolo di Francesco Ramella dal Fatto Economico. Quindi il clima ancora una volta viene preso, anche giustamente dal punto di vista dell'economia, non solo quello della, altrettanto importante, forse più importante anche della salute, ma dell'economia. Finora si assegnano obiettivi locali di riduzione delle emissioni, commenta Ramella dal Fatto Quotidiano, mentre le risorse dovrebbero essere distribuite per massimizzare i risultati. Perché in questo momento è il danno ecologico che massimizza i risultati in negativo, perché è il 4% l'aumento dei poveri a causa dell'accordo sul clima di Parigi. E pensiamo che non è stato neanche rispettato. A proposito di investimenti, a parte i paesi che sono inondati, vanno sotto l'acqua, le isole che spariscono nell'oceano, i deserti che non danno tregua e manca completamente ogni fonte di risorsa idrica, anche da noi naturalmente la cosa si fa davvero pesante. Ogni volta che piove siamo qua a parlare di morti, sfrillati nel nord-ovest dell'Italia. Questa volta spesso succede che nel nord-ovest, in particolare la Liguria, non perde, ahimè, appuntamento con il primo acquazzone. L'ora della rabbia tra acqua e fango, nessuno investe e noi moriamo. I residenti ci dicono sempre che non ci sono i soldi per gli interventi. Naturalmente poi è facile notare che gli interventi post danno costano 10 volte di più che gli interventi pre, ma siccome non fa neanche quelli post danno, uno risparmia. Un abitante: ha piovuto forte, ma il territorio non può essere ridotto così. E poi gli investimenti li fanno, perché nel territorio disastrato della Liguria ci fanno anche la gronda, quindi cemento su cemento su cemento ancora. Il Premier Conte va in visita, faremo di tutto il possibile per porre rimedio ai danni. Qui non cambia mai nulla, dice da Novi Ligure il Corriere con Marco Imarisi. In realtà da Novi Ligure a Gavi, sulla strada disastrata, dove sono caduti quasi 480 mm di pioggia, quindi è un combinato di disastro idrogeologico, speculazione cementizia e cambiamento del clima. Smottamenti, frane ovunque, un senso di resa. Lavori e progetti fermi, non ci sono i soldi. L'acqua è stata tanta, in 5 minuti di tregua e poi ore sembrava un temporale senza fine. A me è assurdo che il territorio sia messo così male. Ci consola il Corriere, perché sottostante c'è il cambiamento cambiamenti in un anno, il buco dell'ozono ridotto del 60%, ora è più piccolo dell'Europa, è sempre mostruoso, ma rispetto a prima c'è un vantaggio, dimostrazione che si può fare qualcosa. Ma andiamo all'alluvione del nord-ovest con morti e crolli, il dramma del tassista ucciso dal fango, ormai sembra quasi routine che uno passa sotto un ponte o sopra un ponte viene trascinato via dal fango e dal fiume in piena. L'ultima chiamata, acqua dappertutto, il governatore Piemonte Cirio, lo Stato ci stia vicino. All'opera, come sempre, i volontari della protezione civile con Santa Mezzi, oltre ai vigili del fuoco. Sì, e anche il manifesto appunto parla di questa emergenza climatica ricordandoci che alle cause globali si correlano quelle locali legate alla cementificazione dell'alveo dei fiumi, si è costruito laddove non si doveva costruire, rendendo gli equilibri idrogeologici più fragili, insomma un intreccio devastante tra globale e locale. E allora andiamo appunto al globale, perché il resto del Carlino oggi va a intervistare uno dei guardiani del polmone verde globale della Terra, cioè l'Amazzonia. Parliamo di Siauni Kuin, capo della tribù Kajinawa, la più numerosa della foresta amazzonica, che da 5 anni viaggia in Europa per far conoscere il suo popolo. È arrivato a Firenze. Sono detti guardiani dell'Amazzonia perché la abitano da sempre, la custodiscono, e non è facile di questi tempi. Oggi, con gli incendi che stanno devastando l'Amazzonia, la loro storia è in pericolo, denuncia il leader della tribù Kajinawa, che appunto in questa intervista dice: se la foresta brucia, tutto il mondo è a rischio, basta con lo sfruttamento, subiamo persecuzioni e le nostre radici vengono spazzate via. E a questo grido d'allarme, fra l'altro en passant anche sul rischio di estinzione di questa comunità di indigena, ma insomma che sembra quasi di poco conto rispetto al problema più globale, arriva appunto arrivano altre conferme. Ad esempio, secondo l'Istituto Nazionale per la Ricerca Spaziale, la deforestazione in Amazzonia è cresciuta del 50% quest'anno, mentre l'80% dei terreni rasi al suolo dalla deforestazione sono proprio dedicati agli allevamenti intensivi. Il climatologo brasiliano Carlos Nobre, premio Nobel per la pace nel 2007, commenta: se la deforestazione va avanti in questi ritmi, il 70% dell'Amazzonia entro 30 anni si trasformerà in una savana. Quindi l'altra faccia della medaglia, piove nubi fragili nel nord-ovest, da noi invece, e leggo dal Corriere di Bologna, fa un caldo tremendo. Alle 6 di novembre il termometro va ancora sopra i 21 gradi, credo che nessuno abbia acceso ancora in casa il termosifone, a dimostrazione che qualcosa sta cambiando, anche per i più testoni, quelli che negano l'evidente cambio di clima. Il terreno però vede qualcuno che ne approfitta e si frega le mani perché gli viene favorevole. L'estate d'ottobre in Riviera, nel caldo record, si fa il bagno, racconta l'autunno inedito il Corriere locale. Gli operatori quindi chiedono di poter adeguare gli stabilimenti per le stagioni tra virgolette fredde, e quale sarebbe l'adeguamento? Sarebbero il frangivento, sono dei paratie di plexiglass che appunto, tenendoti al riparo anche dal venticello che magari è un po' freschino, ti lasciano mentre giorno la sabbia caldissima. Tra novità che i bagnini vorrebbero inserirsi sarebbero questi frangivento più stabili, quindi tutti al mare. Tutti al mare a mostrare le ghiappe ghiare con i pesci in mezzo all'onne. Noi andiamo a divertirci. Tutti al mare a mostrare le ghiappe ghiare con i pesci. Tutti al mare, dunque, cantava la grande interprete delle canzoni popolari. Ma vengo a giornali a destra romana. Come il tempo. Mafia capitale non è mai esistita. Oh, di cosa abbiamo mai parlato? E questo è sentenza. La Cassazione demolisce definitivamente l'indagine che mise capo a Roma. Quindi sembra che siano innocenti, capite come la descrive il tempo di Roma? Alemanno, Parentopoli e quant'altro. Ma scendiamo allora al Messaggero, che più o meno fa il verso al tempo. Non era mafia capitale, di cosa stiamo parlando? Mondo di mezzo e la Cassazione ribalta tutto, situazione delinquere semplice, solamente semplice, qual è il problema? Per Carminati Busti le da ricalcolare in appello, polemiche tra i legali e il PG Salvi, dunque prima istanza non era mafia capitale, seconda istanza era mafia capitale, terza istanza non è più mafia capitale, naturalmente cosa si intende per mafia? Sicuramente non è Lupara e Coppola e scaccia pensieri, associazione delinquere penso proprio di sì. Ma era semplicissima. Ma questo fa anche titolo da stampa. Capitale senza mafia, la Cassazione ribalta, l'accusa la procura. Però qualcuno dice che, chiamala come cavolo volete, ma Alfonso Sabella, assessore legalità ai tempi della Giunta Marino, non mi interessano le etichette, la verità è questa, Roma è stato ostaggio di un branco di delinquenti. Ma no, non è mafia capitale, ma quando mai? Non va sminuito il lavoro dei magistrati. Il malaffare c'era ed era grave, dei criminali hanno piegato i politici ai loro interessi. Anche dal giornale, in Cassazione, schiaffo ai PM, escluso il 416 bis, si torna in appello per il ricalcolo delle pene, che ci ricorda Repubblica peraltro al momento attuale, prima del ricalcolo, segnalando per esempio che, non so, Carminati, l'ex terrorista dei NAR, è a 14, ma è in discesa. Buzzi è a 18, Gramazio, ex consigliere del PDL, è a 8 anni, e quindi insomma e tutti avranno delle riduzioni. Mafia capitale non c'è più, i condannati ora esultano, dice Repubblica. Quella parola tabù, scrive Carlo Bonini, che ha fatto varie inchieste su questo mondo di sotto, dimezzato, come vogliamo chiamarlo, quando i criminali toccano la politica. L'indagine di Pignatone aveva ipotizzato l'esistenza di un mondo di mezzo, ma la Suprema Corte chiude quella stagione. E quindi per Bonini questa sentenza è una sorta di de profundis. Solo banditi e corruttori, che sembra quasi, come dire, una sorta di complimento in questa altalena dei verdetti. Una lettura riduzionista della catastrofe della capitale del paese, con la sentenza della Cassazione che verrà ricordata per la decisione che culture mafiose non producano comportamenti e organizzazioni mafiose. Peraltro, ci ricorda Bonini, era il secolo scorso, ma successe anche alla Banda della Magliana, che in una delle due sentenze che definirono il giudizio non venne riconosciuta appunto la natura mafiosa. Anche quella organizzazione criminale fu consegnata agli archivi come un'associazione a delinquere semplice. Insomma, Roma può tornare ad essere appunto una città eterna imbevuta di cultura mafiosa, ma dove la mafia, quella vera, non esiste. Veniamo alla pagina internazionale. Facciamo il solito sforzo di piccola immaginazione. Se un integrista islamico avesse preso un'autoambulanza e marciato ad Oslo o in qualche altra capitale d'Europa investendo la povera gente, sarebbero tutte le prime pagine con questo titolo: cortei nelle strade a cantare mai più l'Occidente, non l'Occidente. Avendo fatto la stessa cosa un nazista, allora invece La Stampa, per esempio, questa notizia la mette a pagina 17, nelle varie eventuali, ruba l'autoambulanza e vuole uccidere i passanti, 5 feriti. Che ha più spazio quest'altra notizia, sempre in questa pagina tra le varie eventuali, con tanto per una foto suntuosa. L'ascesa al trono dell'imperatore festeggiato con 3 banzai. Banzai, banzai, banzai, chissà se è un programma a mai dire banzai. Comunque, questo è La Stampa. Devo dire che anche il Corriere, che pure invece dà un paginone a questa notizia, però la riserva solo a pagina 15. Quindi dopo la cosa del governo, litigate tra Renzi, eccetera, eccetera. Oslo rivive l'incubo di Breivik, da un'autoambulanza sulla folla, 5 feriti. Ha travolto una mamma con 2 gemelli, si segue la pista del neonazismo. E anche qui si segue, se fossero degli integralisti sarebbe tutto il quartiere. Invece qui si segue la pista. Questo è, anche se era naturalmente conosciuto dalla polizia e tutt'altro. Questo en passant su figli e figliastri della nostra redazione italiana. Sì, un ex, è un 32enne ex poliziotto pregiudicato per vandalismo, ricatti, spaccio di droga, ma soprattutto con la compagna considerata in contatto con il movimento di resistenza nordica, come si chiama. Poi ci sono i precedenti di killer nazisti e c'è l'imbarazzo della scelta, purtroppo un vero e proprio album. E allora ci spostiamo dalla Norvegia, andiamo in Cile, dove con Repubblica abbiamo questa apertura del presidente Piñera che offre le dimissioni di tre ministri e apre, ma la piazza non tratta, le proteste non si fermano, mentre ci sono 15 vittime già ufficiali, i morti sono saliti a 15, più di 3.000 i feriti, 2.600 gli arrestati, con Piñera che cerca di ammorbidire i toni, smettere di parlare di guerra contro un nemico pronto a tutto, e offre anche alla piazza la testa di tre ministri chiave di questa crisi, un mega rimpasto offerto, però respinta dal Frente Amplio. E c'è un'intervista a Jorge Culón, storico fondatore degli Intellimani, che dice: il popolo è in strada per chiedere un risarcimento, ma non sono i tempi di Pinochet. Viviamo una situazione caotica con le gravi restrizioni imposte dal coprifuoco. Ciò che ha portato a questa rabbia diffusa sono stati 45 anni di frustrazione. La ricchezza si è concentrata nelle mani di pochi, la gente ha sopportato troppo a lungo, ora chiede un risarcimento. E non è, diciamo, è un refrain che conosciamo purtroppo troppo bene. Ci spostiamo di poco, restiamo in America Latina, con quello che il manifesto mette oggi nel prima pagina, ovvero il voto in Bolivia. Vittoria offerta di Morales in Bolivia, accreditato col 96% dei voti validi scrutinati, accreditato del 47%, superando di quasi 11 punti il miglior candidato della destra, fermo al 36, così Morales verrebbe riconfermato presidente della Bolivia per i prossimi 5 anni. Sì, e questo i giornali italiani non hanno dubbi a dire che sono brogli elettorali. Questo perché, leggo proprio dalla stampa con Emiliano Guanella, la Bolivia in rivolta per le elezioni Morales ha truccato i risultati, ovviamente lo dico all'opposizione, il problema è che di 5.000 voti a far scattare la soglia del maggioritario, quindi 5.000 voti, è stato un blocco inspiegabile, secondo la stampa, di lungo tempo nello spoglio dello scrutinaggio. Per mezza giornata si è bloccato quando era sulla soglia. Devo dire che in Italia è sempre uguale, però nessuno parla di brogli più di tanto. Ma perché c'è questa ostilità alle elezioni di Morales pur sofferta? Lo spiega comunque tra le righe anche questo giorno, in questo articolo di Guanella dalla stampa. Sebbene l'economia boliviana cresca da un decennio, nei ceti medi e in parte nel sindacalismo indigeno, la sua figura ricontinua ad essere indigesta. Tra questi ultimi c'è chi non mette in discussione il modello di Stato socialista ibrido, assistenzialista ma aperto al mercato, agli investimenti stranieri, ma che sta a comandarlo sia sempre la stessa persona. Questo è, ovviamente, se vinceva per 5.000 voti uno quello della destra, erano tutti contenti. Ma detto questo, passo invece al Medio Oriente, perché brutte notizie per Bibi Netanyahu, perché in Israele, non essendoci una maggioranza di un partito unico, dovendo fare una coalizione tra due partiti assolutamente identici, il Likud e quello del generale, ex generale Benny Gantz, che qualcuno definisce centro-sinistra ma non è di centro-sinistra, ma qual è la differenza? Gantz governa con il Likud ma senza Bibi. Ora, non essere ministro, Bibi Netanyahu, impedisce di avere lo scudo dell'immunità parlamentare governativa per i suoi guai giudiziari, quindi andrà a processo. Incarico al leader di blu e bianco, questo per quando non sai come definirti, butti lì un colore. E su Netanyahu incombe il rischio del processo. E poi la vicenda curda. La vicenda curda che vede un trionfatore, è Putin, e uno sconfitto, la popolazione civile, in particolare quella curda. Questa Siria Putin farà lo sceriffo, via il protettorato russo. Quindi il ritiro degli americani è stato sovrabbalanzato dalla potenza russa. Nuova tregua, accordo tra lo zar e il presidente turco Erdogan, altre 150 ore per far evacuare i curdi e pattuglie congiunte in una fascia di 10 km. Anche la festeggia dello status quo per l'operazione Fonte di Pace sarà preservato. E infatti il commento che abbia vinto Putin direi che è generalizzato sui giornali, perché anche la stampa, con questa volta Giordano Stabile, Putin Putin-Erdogan, patto sul nord della Siria. Sarà istituita una zona cuscinetto con pattuglie miste di russi e turchi, altre 150 ore per il ritiro dei curdi. Speriamo almeno che la presenza dei russi impedisca la rappresaglia più feroce delle milizie jihadiste al soldo di Ankara. Non è ancora chiaro il destino di Kobane, che teme infiltrazioni di milizie afarabo-sunnite, che tra l'altro odiano i curdi, quindi sono felicissimi di perseguitare la gente inerme. Lancio di uova e pietre sull'ultima colonna di soldati americani considerati traditori. Sì, e appunto è Putin al centro della scena, ma ad esempio Repubblica dice che un accordo, appunto come già citavi tu, sulla pelle dei curdi che dà l'ok all'occupazione turca, addio Rojava, Kobane presto nelle mani delle truppe turche, il sogno, scrive Marco Ansaldo, del Kurdistan occidentale nella Siria del Nord svanisce definitivamente dopo 7 ore di incontro tra lo zar e il sultano, cioè tra Erdogan e Putin, che si spartiscono le ultime spoglie di un territorio curdo autonomo, dove la Turchia invece riverserà i 3,6 milioni di profughi siriani ospitati attualmente. E c'è un'intervista al comandante del YPG, il nucleo centrale delle forze siriane democratiche, che dice: ci stiamo ritirando secondo l'accordo raggiunto, ma Mosca dovrà ricompensarci. Quindi ovviamente batte cassa, bottino di guerra, dice anche il manifesto. Putin regala 100 chilometri di Siria a Erdogan, cacciati i curdi. Il Rais incassa un quarto di zona cuscinetto, il Rojava al collasso, ospedali fuori uso e 500.000 di persone senza acqua. Nel frattempo in Canada vince Trudeau, fa il suo bis, non era fatto scontato perché travolto una serie di scandali. Sconfitto invece il conservatore quarantenne Andrea Scheer, stretta sull'immigrazione e sull'aborto, scetticismo sul climate change, e non ha portato buoni voti al partito conservatore canadese. Mentre notizia dall'Irlanda del Nord, buona per loro ma ci fa vergognare a noi, perché la cattolicissima un po' retriva Irlanda ci supera in democrazia. Perché leggo: l'Ulster legalizza l'aborto ma anche le nozze gay. Da noi non se ne parla neanche, legalità delle nozze gay, eh? E si discute dello Ius Soli, pensate voi. Giornata storica per l'Irlanda del Nord, che ha legalizzato aborti e non matrimoni gay. La legalizzazione è diventata effettiva alla mezzanotte tra lunedì e martedì, in seguito alla legislazione del Parlamento britannico. A mezzanotte sarà fatta la storia, aveva commentato Graeme Tegger, manager della campagna di Amnesty International for Ulster. I vescovi nordirlandesi invece parlano di un giorno triste per la nostra democrazia. Le norme avranno effetto operativo dal 2020. Ma prima del 2020 dovrebbe giocarsi la più grande, che riguarda anche l'Irlanda del Nord, potrebbe essere una polveriera davvero pericolosa, quella delle frontiere tra Irlanda del Sud e Irlanda del Nord e della Brexit di Boris Johnson, che ha avuto un inciampo, come raccontano tutti i giornali, io prendo da Luigi Ippolito, sempre dal Corriere. Brexit, primo sì al piano Johnson, ma nessuna uscita il 31 ottobre. Dopo 3 anni il Parlamento approva in principio l'intesa con l'Unione Europea, ma chiede un altro rinvio. Qui una sconfitta pesante di Boris Johnson, perché il tempo gioca a favore di un remain di fatto. Scommessa persa, Johnson non riuscirà a portare la Gran Bretagna fuori dall'Unione Europea nei tempi promessi. Sì, le ultime notizie dagli esteri per quanto riguarda le pagine del manifesto, che vanno anche in Libano. Dalla piazza all'alternativa ai piani economici di Beirut, manifestanti libanesi al lavoro, il pacchetto di riforme del governo, appunto, del premier Hariri, convince solo la comunità internazionale ma non non i libanesi. Mentre sempre dalla pagina internazionale abbiamo un'occhiata, anche una finestra che si apre in Iraq, a 2 settimane dalle proteste esplose a Baghdad nel sud dell'Iraq contro povertà e corruzione duramente represse dalla polizia, l'inchiesta del governo iracheno si è conclusa con un'autoassoluzione. Nessun funzionario ha ordinato di sparare sui manifestanti. Però leggiamo purtroppo il triste stillicidio delle vittime: 107 manifestanti uccisi, 3.400 feriti, ma nessuno, riconducibili a nessuno. Beh, allora metterò in galera qualche poliziotto, perché se hanno sparato senza gli ordini qualcuno dovrà andare in galera, ma invece penso di no. Velocissimamente dalla cronaca locale, perché il tempo davvero stringe: San Lazzaro ferma le antenne 5G. La sindaca renziana sfida Bologna, in realtà anticipo come di Bologna chiedeva un ordinamento comunale, ma qui c'è una logica di apparire di più tra PD e Italia Viva di Renzi. E infatti, per esempio, c'è l'altro tema, che c'è il PD inferocito perché Italia Viva vuole partecipare alle elezioni europee, alle regionali, col centro-sinistra, ma non fa la sua lista, vuole entrare con la lista del PD con la sicurezza di essere eletti. E gli altri dicono: no, ve lo guadagnate la pagnotta. Questo è un po' è il ragionamento che viene fuori dalla pagina dei giornali. Sì, questa vicenda è quella che troviamo ampiamente ripresa anche dal Carlino e da Repubblica Bologna. Telefonia e reti 5G tra San Lazzaro a Bologna e gara sullo stop, come già diceva Alfredo. Segnalo invece dalle pagine della Repubblica: studenti senza studentato, la denuncia dei collettivi, fuori sede in aumento costante, tanti idonei nelle graduatorie per avere un alloggio universitario a Bologna, ma i posti non bastano. Si accende il problema dei ragazzi rimasti fuori dagli studentati, che denuncia il collettivo Link, quest'anno sarebbero più del doppio rispetto al precedente anno accademico. Ultimo servizio, poi vi salutiamo, che evidentemente riguarda i luoghi e i non luoghi della città che cambia, perché apriamo di Grassroots, lo spazio di via dei Lamponi, che è sia osteria che libreria, ma soprattutto è uno spazio sociale del quartiere Santo Stefano, che rischia, ahimè, la chiusura a causa dello sfratto combinato dalla proprietà. Abbiamo parlato con Milena, che gestisce lo spazio, e quindi con questo servizio vi salutiamo. Domani alla stessa ora, sempre l'appuntamento con Radio Zanardi e la sua rassegna stampa. Questa situazione parte da quest'estate, quando abbiamo preso in gestione il bar del Paleotto con condizioni improponibili, che poi comunque ci hanno portato ad avere un buco economico nel bilancio. Per il fatto che comunque quest'estate Grassroots era chiusa, siamo trasferiti al Paleotto per comunque cercare di aggregare un attimo anche il parco con tutte le nostre attività, laboratori, concerti, attività sociali, culturali ed eccetera, ma ciò non è successo per varie ragioni, qui non sto adesso a puntarmi, e ha prodotto un buco economico non possibilità di pagare gli affitti questo estate al proprietario delle mura. Una situazione che è capitata anche l'anno scorso, in effetti c'erano due affitti arretrati anche dell'anno scorso, sempre nel periodo estivo, e quest'estate, per evitare di trovarci nella stessa situazione, abbiamo cercato di fare l'estivo al Paleotto, tutto il contrario tranne avere una situazione positiva. Anche il proprietario comunque ha deciso di mandarci una lettera di sfratto, e siamo anche tuttora all'udienza, prossima udienza è il 28/10, lunedì alle 11, con il proprietario, che comunque non è disponibile di accettare nessuno degli accordi che gli abbiamo proposto, perché gli accordi non erano neanche male. Ecco, noi gli abbiamo proposto 2.000 euro subito e poi nei mesi successivi di pagare due affitti invece che uno, fino a recuperare tutta la morosità. Lui ha rifiutato, come diverse nostre proposte che rifiuta da marzo in avanti, per cercare di comunque abbassare l'affitto, perché l'affitto è troppo alto in una zona di poco passaggio, una zona che non è centrale, una zona che comunque abbiamo noi rianimato, ecco, con l'area bimbi, con l'aiuto delle scuole, con l'aiuto degli asili nidi, con l'aiuto dei cittadini, dei residenti, delle persone che abitano nel quartiere Santo Stefano, e con i lavori sociali che comunque finora abbiamo fatto. Vale la pena di ricordare, insomma, che Grassroots non è semplicemente un'osteria, libreria, ma ci sono spazi per laboratori, insomma avete un approccio anche sociale. Certo, noi comunque con iniziative diverse, di diverse persone, soprattutto iniziative delle persone che il quartiere lo abitano, abbiamo attivato diversi corsi, diversi laboratori, concerti che comunque vengono fatti sempre nel rispetto degli abitanti del palazzo. Ecco, diciamo che facciamo concerti pomeridiali dalle 18 alle 20, massimo alle 21, corsi di inglese, i laboratori con Cristina Portolano, i laboratori con Marina Girardi, laboratori per bambini creativi ogni mercoledì che facevamo l'anno scorso. Sono diverse cose che facciamo, diverse iniziative culturali che facciamo anche a titolo gratuito, come avevo appena elencato. Quindi il nostro scopo non è sempre uno scopo di scopo economico, il nostro scopo è anche e soprattutto quello sociale, soprattutto quello di offrire servizi al quartiere, alle famiglie, di tutti i tipi di famiglie. Quando parlo di famiglie intendo tutti i tipi di famiglie, a prescindere dell'orientamento, a prescindere della razza, a prescindere di tutto quanto. Il Grassroots è sempre stato aperto a tutti e tutte, e tutti e tutte l'hanno frequentato. In effetti abbiamo lanciato anche una petizione che in 3 giorni ha raggiunto più di 300 persone, che comunque è un super risultato, che le persone comunque del quartiere chiedono al comune di prendersi a carico almeno una minima parte per mantenere Grassroots in vita, ecco, diciamo. diciamo che comunque per noi è importante rimanere in vita. Se lo spazio e il proprietario non sono disponibili a scendere con l'affitto oppure a trovare un accordo, allora noi chiediamo un altro spazio sempre in quel quartiere per poter continuare le nostre attività sociali e anche di cultura di cibo. In attesa che si risolva questa questione, però voi avete lanciato una campagna di sottoscrizione, un crowdfunding su buonacausa.org. Esatto, il crowdfunding è attivo da un paio di settimane, si può fare una donazione per chi ci crede nel progetto attraverso la PayPal o attraverso un bonifico bancario. Abbiamo messo un limite di 7.000 euro, perché effettivamente più o meno è quella la cifra che il proprietario chiede subito, e siamo arrivati a oltre 1.000 euro, credo, per chi vuole lo può fare.